Sono le ore 19:58 di martedì 20 maggio 2025. E ormai sono passati alcuni giorni da questo post che ho scritto sulla mia newsletter di Substack, in cui torno sul tema di Roma e sul modo in cui Roma viene percepita. E tutto nasce un po' dal fatto che adesso le narrative, quelle dominanti, stanno un po' cambiando, no? Cioè, comincia a esserci un racconto diverso sulla città, banalmente perché l'amministrazione sembra aver lasciato qualche cambiamento tangibile. Ci sono stati a lungo tanti cantieri, adesso si cominciano a vedere tutte le inaugurazioni, che sono tante, anche se non rispondono certo a un disegno strategico e organico. Ma come sappiamo bene noi che abitiamo in questa città da decenni ormai, l'ultimo piano regolatore che è stato davvero attuato è quello del 1931, e prima ancora in parte il famoso piano di San Giusto di Teulada dei primissimi anni del Novecento. Quindi diciamo che le vere novità organiche della città sull'impianto barocco, rinascimentale, eccetera eccetera eccetera, sono le novità piemontesi, i quartieri costruiti in epoca immediatamente post-unitaria, e poi la crescita della città vorticosa durante il fascismo, anche per andare incontro all'enorme aumento anche della popolazione della città in quegli anni, no? Poi dopo cosa accadde? Accadde che dopo la guerra intanto fu necessario dare un senso a queste due, diciamo, rivoluzioni, superfettazioni moderne di parti della città, no? Che non hanno mai veramente dato la sensazione di una trasformazione integrale, cosa che magari invece è successa nelle città che sono state completamente distrutte dalla guerra nel secondo dopoguerra. Per esempio a Roma no, perché Roma è stata in larga misura risparmiata dai bombardamenti, quindi non si è dovuta ricostruire. Le rovine ci sono, ma risalgono a molti secoli addietro. E quindi la città che ci troviamo oggi che cos'è? Beh, da allora si è praticamente smesso di pensare in termini di urbanistica. Abbiamo tentato una grande rivoluzione direzionale negli anni 60, il famoso SDO, che non ha mai visto la luce. Mi verrebbe da dire, per fortuna, se riguardo i disegni dello studio Asse di Kenzo Tangeri, come immaginava questa specie di Blade Runner City, a essere la città davvero montagne e montagne di cemento senza un vero costrutto. Poi naturalmente l'idea di spostare tutti gli uffici e decongestionare la città poteva anche avere un senso, però il modo in cui si pensava di realizzarla, insomma, siamo contenti che non sia stata portata a compimento quell'operazione. E poi dal 61 in poi che è successo? Beh, è successo che invece che fare grandi piani regolatori si è andati avanti risolvendo emergenze, no? Per esempio, uno che aveva grandi idee sulla città era il sindaco Petroselli negli anni 70, che però si rese conto poi subito, quando gli furono date le chiavi, che le urgenze erano altre. Roma aveva intere enormi aree che somigliavano davvero alle città indiane, con le bidonville, centinaia di migliaia di persone vivevano in condizioni davvero da terzo mondo, e quindi il risanamento delle bidonville e poi insieme al governo il piano Ina Casa, l'idea di dare la casa a tantissime persone che avevano un piede nella strada, era diventata l'unica vera visione che poteva avere un sindaco, che poi purtroppo è anche morto molto rapidamente. Però ecco, quello fu uno degli ultimi atti fortemente politici e tutt'altro che urbanistici a Roma. E che cosa poi vediamo ora di tutto quel periodo? Beh, intanto vediamo che là dove doveva esserci lo SDO erano aree chiaramente vincolate, c'è come una specie di striscia disabitata, no? Tra il vallo ferroviario a oriente e il resto dello sviluppo della città verso il raccordo anulare, dove ci sono proprio dei buchi che sono in cerca di autore. Uno è la zona del Parco dell'Aniene di Pietralata, no? Doveva essere uno degli importanti snodi dello SDO, e per il momento si è pensato di farci un nuovo stadio della Roma. Poi c'è la zona lungo la Prenestina, per esempio, dove c'era lo stabilimento ex Snia Viscosa, poi doveva diventare un centro commerciale, poi hanno rotto la falda acquifera, poi è nato un lago, poi la natura ha pensato di farci un parco e le persone se ne sono in qualche modo impossessato. Ecco, questo è un altro buco a cui è stato dato un senso. E poi andando ancora più a sud vediamo questi assi tangenziali, no? Via Tordeschiavi, poi vediamo Viale Palmiro Togliatti, che attraversano anche lì grandi aree verdi, no? Villa Gordiani, attraversano il Parco di Centocelle. È davvero strano lo sviluppo di Roma, forse proprio perché non risponde a nessuna volontà urbanistica. Convivono proprio come nei film di Pasolini, città e campagna, e questo accostamento che per tanto tempo è stato associato all'arretratezza di Roma sembra quasi oggi la sua salvezza. È difficile, è scomodo dirlo, però soprattutto durante la pandemia ci siamo resi conto di come questa città abbia trovato una sua resistenza negli spazi verdi che rifiorivano, nella fauna che riemergeva, capendo che forse si poteva tornare a occupare certi spazi. E anche noi abbiamo cambiato il nostro sguardo verso questi spazi, ed è forse per questo che oggi, se qualcuno s'alzasse e dicesse ecco il nuovo grande piano regolatore per Roma, non so se per cinismo, per disillusione, no? Che sono i tratti tipici dei romani, diremmo ma no, ma lascia perdere. La città ha saputo in qualche modo, possiamo dire incivilmente, possiamo dire fuori da qualsiasi idea di progresso, ha saputo in qualche modo poi reinventarsi. Qualcuno dice che è una città ingovernabile, per certi versi lo è, però appunto vedendo la trasformazione della città punteggiata da tanti interventi apparentemente scollegati tra di loro, forse è davvero l'unico modo di migliorarla, perché poi gli spazi non è che rimangono lì e diventano l'impronta di un'amministrazione improvvisamente virtuosa, no. Gli spazi vivono, decidono per esempio se fare la manutenzione di un'opera perché i cittadini pensano che sia importante, no? Come è successo per la ciclabile di Monte Ciocci, oppure la abbandonano un'opera se evidentemente non la ritengono utile. Ecco, per esempio i nuovi parchi d'affaccio, no? Che Gualtieri sta inaugurando lungo il Tevere, che sono interessanti perché ridanno un ruolo a luoghi panoramici, soprattutto a questa Roma selvatica a contatto con la città, no? I romani si stanno riappropriando dei fiumi. Io ho visto questi parchi improvvisamente popolati da persone che passeggiavano col cane, altri che facevano jogging. L'ho trovato molto bello, però la domanda è: ok, ma siamo sicuri che poi rimarranno così, oppure vincerà il degrado, l'inciviltà, no? E da qui nasce l'idea dei patti di collaborazione con le associazioni locali per la manutenzione di questi posti. È una grandissima scommessa. Se persa, vorrebbe dire davvero che anche questa era una effimera forma di campagna elettorale, no? Gualtieri probabilmente pensa di essere rieletto, e se vinta è forse davvero un modo un po' più partecipato di governare la città. È forse però una sconfitta della democrazia rappresentativa? Non lo so, sono tutte domande che però neanche ci saremmo posti, no? Se non fossimo arrivati fino qui. quindi ringraziamo ancora questa città, perché è una città che ci fa sempre pensare, ci fa sempre, ci lascia sempre degli interrogativi e poche certezze, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno forse in questo momento.